Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, vi sarà anche oggi la nostra consueta rubrica ormai sugli sprechi delle regioni, ma in realtà oggi ci occuperemo anche della Banca Centrale Europea, delle dichiarazioni di Mario Draghi, torneremo su temi anche più classici di Focus Economia e dello scontro, confronto in realtà tra Romney e Barack Obama. Sui temi economici, molti osservatori sono concordi nel dire che il primo dibattito tra Barack Obama e Mitt Romney si è concluso con un leggero vantaggio per il candidato repubblicano, lo sfidante appunto Romney, apparso più battagliero, però e poco fa, come ricordava il nostro GR, è arrivata la prima mail mandata ai suoi fan appunto da Romney, che ha detto vediamo la vittoria. Un dibattito che si è giocato quasi tutto sui temi economici, di questi parleremo più avanti. Infine anche torneremo su quello che sta capitando alla politica e la politica economica di casa nostra. Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Mario Monti, adesso le ascolteremo, che sulla possibilità che in questa legislatura arrivi una riduzione della pressione fiscale, in attesa di capire che cosa c'è dentro il disegno di legge sullo sviluppo, ma dall'altro anche una politica che entra sempre più in un cortocircuito, a nostro avviso, un PD in diaspora e un PDL in tra virgolette decomposizione, finché non si capisce cosa sta capitando, con sullo sfondo una tendenza, per usare una battuta, negli anni 70 si diceva il privato è pubblico. Adesso mi sembra che il pubblico diventi privato, e quindi che cosa sta capitando anche al regionalismo, all'idea che le regioni fossero necessariamente più virtuose rispetto allo Stato centrale. Alcuni l'hanno chiamata la fine del regionalismo spinto, quello che sta travolgendo molte amministrazioni regionali. Oltre a questo, come sempre la borsa, devo dire che oggi la borsa è più che tranquilla, 0,06% il rialzo di Milano, meno 0,08 quello di Parigi, il calo di Parigi, meno 0,18 quello di Francoforte, Londra 0,07, non poteva che essere altrimenti, diciamo in questi casi a Londra, il rialzo, TOZ più 2,42 come Finmeccanica, Fiat più 2,16, Popolare Emilia Romagna più 1,5 come Pirelli ed Exore, anche Unicredit, UbiBanca più 1,40 come Intesa San Paolo, Mediobanca più 1,20 come Buzzi Unicem, fronte opposto invece Fiat Industrial meno 1,70 come Ferragamo e Tenaris, Enel meno 1,20, Enel Green Power meno 1%. Dicevo dei temi legati alla Banca Centrale Europea, ma anche agli Stati Uniti, e poi i temi di casa nostra. In realtà partiremo dagli Stati Uniti, ci sposteremo poi all'Europa per chiudere con l'Italia. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie in breve. Sì, farò anche riascoltare l'episodio del presidente della municipalità di Lecco che ha bucato le gomme del disabile. Voi dite perché lo fai ascoltare? Cosa c'entra con l'economia? Ma forse non c'entra molto, però c'entra con l'educazione civica. E a mio avviso farlo ascoltare una volta in più non cambia nulla. Prima di tutto però fatemi ricordare, lo hanno già fatto i nostri programmi, che oggi Radio 24 compie 13 anni. Il 4 ottobre nasceva, infatti del 99 nasceva Radio 24. Un ringraziamento a tutti i direttori che si sono susseguiti: Elia Zamboni, Giancarlo Santammassi, Gianfranco Fabi e chiaramente Fabio Tamburini. Noi modestamente già allora eravamo in conduzione di un programma che si chiama tuttora Salvadanaio, un orario diverso dalle 10 alle 11, e allora un buon compleanno alle 24 prima della notizia in breve. Happy birthday to you. Ecco, speriamo che qualcuno condivida il nostro compleanno, magari alcuni no. In ogni caso, buon compleanno a tutta Radio 24, a tutta la redazione, agli assistenti, ai tecnici e a tutta la parte anche amministrativa. Adesso partiamo con le notizie in breve. Partiamo dall'oro sempre in rialzo a 1780 dollari l'oncia e un petrolio invece sempre in calo a 87,94 dollari il barile, il Brent invece a 108 dollari. Il dato americano sui sussidi alla disoccupazione migliore delle attese. Solo 4.000 sussidi in più, mentre dall'America arriva la notizia che Facebook ha raggiunto il traguardo del miliardo di utenti. Un miliardo di utenti, impressionante. E visto che parliamo di Facebook, ricordiamo anche che oltre a scrivere al 349-238-6666 potete anche scrivere sulla pagina del programma di Focus Economia su Facebook. Andiamo avanti. Della Banca Centrale Europea ci occuperemo tra breve, lascia i tassi invariati allo 0,75%, non si è nemmeno discusso di un taglio di tassi nei prossimi mesi, ha detto Mario Draghi. La crescita dell'area euro è debole, c'è molta incertezza. Based on our regular economic and monetary analysis, sulla base delle analisi economiche e monetarie, il Consiglio direttivo ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. L'inflazione media dell'area euro è attesa al di sopra del 2% per il resto del 2012, a causa dei rialzi dell'energia e delle tasse indirette in alcuni paesi. Tuttavia, nel 2013 dovrebbe calare sotto questo livello e poi mantenersi in linea con gli obiettivi di stabilità. La crescita economica della zona euro è attesa debole, con le perduranti tensioni dei mercati in alcuni paesi e l'elevata incertezza, fattori che pesano sul clima di fiducia. Riguardo alla decisione sui tassi di oggi, posso dire che non c'è stata discussione, quindi in un certo modo posso affermare che è stata una decisione unanime. E ripeto, di questo parleremo più avanti. Invece oggi abbiamo notizie che riguardano Cipro, che dovrebbe chiedere aiuti per 11 miliardi di euro per un possibile salvataggio, secondo fonti vicine al governo cipriota. 5 miliardi saranno destinati alla ricapitalizzazione delle banche cipriote, mentre altri 6 sono necessari per ripagare il debito fino alla fine del 2015. La Spagna non ha chiesto ancora alcun aiuto finanziario al Fondo Monetario Internazionale. Secondo varie fonti, il piano a cui starebbero lavorando i governi di Madrid, Roma, Berlino e Parigi sarebbe di un fondo salva stati che dovrebbe garantire il 20-30% dei nuovi titoli emessi dalla Spagna, in modo da fornire delle garanzie agli investitori che comprano i titoli spagnoli, in modo da assicurare alla Spagna poi la possibilità di trovare finanziatori per il suo debito. Madrid verrebbe quindi salvata senza usare tutte le risorse del fondo, ma dando, diciamo, una parte di queste risorse a garanzia, ma si eviterebbe al tempo stesso un contagio nel caso di crisi spagnola anche verso l'Italia. Il nostro spread è tornato sotto i 360 punti, a 357, quello spagnolo è a 433. E dicevamo di Mario Monti, che ha detto: non escludo un taglio delle tasse entro la legislatura. Posso fare allora questa domanda finale, che immagino in questo momento si faranno tutti gli italiani? Non le garantisco la risposta, no, ma è nei suoi poteri anche di farla la domanda. Perché so che è particolarmente impegnativa. No, la domanda è se è possibile immaginare da qui alla fine della legislatura anche soltanto individuare un percorso per una prima tappa di riduzione della pressione fiscale. Individuare un percorso per anche soltanto una prima tappa, individuare un percorso per anche soltanto una prima tappa, non lo escludo. Ora, chi faceva la domanda a Mario Monti, forse qualcuno l'ha riconosciuto, era il deputato Enrico La Loggia. Va bene, domanda più che legittima: se non si arriva a smobilitare un po' di risorse e quindi a dare più potere d'acquisto attraverso una riduzione fiscale, possibilmente verso i lavoratori più che verso l'impresa, o perlomeno equilibrando l'iniziativa, il cosiddetto cuneo fiscale, è chiaro che non ripartiranno mai i consumi interni. Devo dire solo che mi fa un po' specie che adesso tutti questi deputati si sveglino per chiedere a Monti una riduzione del carico fiscale, che va fatta, ma dico, insomma, nei 3 anni di governo con 100 deputati di scarto non si è visto nulla. Adesso deve far tutto Monti. Interessante. Il Consiglio dei Ministri, la conferenza stampa è iniziata alle 4:30, avrà un testo leggero per le misure per la crescita, il cosiddetto sviluppo bis. La bozza dovrebbe essere composta da 38 articoli, molto più sottili rispetto alle precedenti, tra l'altro ce ne furono alcuni di 80 articoli. Dovrebbe prevedere dall'agenda digitale alle facilitazioni per le assunzioni nelle start-up, nelle società che nascono nuove, e dalle infrastrutture alle RC auto fino alla diffusione dei pagamenti elettronici, quindi bancomat e carte di credito, contro l'evasione. Scompare dalla bozza però la proroga delle concessioni per il carbo Sulcis, e è presente nella bozza del decreto sviluppo, ma viene accorpata anche alla proroga del regime tariffario favorevole per Alcoa, quindi si accorpa, diciamo, la vicenda Sulcis con la vicenda Alcoa. Nel frattempo vediamo anche, dovrebbe anche essere presente un incentivo fiscale, non semplicemente di decontribuzione, per le start-up previste appunto dal decreto, e le risorse per questo incentivo dovrebbero arrivare dalle tariffe elettriche e dal gas, quindi dalle bollette. L'Istat conferma il calo del potere d'acquisto delle famiglie nel 2011. È calato infatti il reddito lordo è calato dell'1,9%, ma andando al dato netto, cioè al netto dell'inflazione, la dinamica dei prezzi ha determinato un calo del potere d'acquisto, dice l'Istat, dello 0,8%. E tutto ciò fa dire al presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, a margine tra l'altro dell'assemblea di Confitarma di oggi, che lo scenario sul futuro resta molto molto difficile. Basta guardare i dati, li avete visti. Le proiezioni del centro studi di Confindustria parlano di meno 2,4 per quest'anno e meno 0,6 per l'anno prossimo, quindi non possiamo certo giudicarli dati positivi. Alla fine io mi auguro, e le nostre proiezioni dicono anche, che nella seconda parte dell'anno prossimo si dovrebbe vedere perlomeno un cambiamento di direzione per avere una vera ripresa, come ho già detto. Credo che per vera ripresa, io tendo un 2%, una crescita del 2%, dobbiamo aspettare probabilmente il 2015. C'è qualche ascoltatore che ci chiede se parliamo di Tributi Italia. Abbiamo parlato ieri della vicenda incredibile di chi si è fregato 100 milioni, di cui 20 milioni per uso personale. Abbiamo anche invitato alcuni amministratori, sindaci o assessori di comuni che non hanno ricevuto i soldi. Oggi obiettivamente non ci torniamo. Vorrei invece andare rapidamente, poi parleremo ancora di di altre dichiarazioni di Giorgio Squinzi, quindi del presidente Confindustria, nel caso specifico di Ansaldo, però e arriveremo anche ai costi della politica, perché insomma non si capisce bene che cosa, cosa porterà il tentativo di ridurre i costi della politica. Le aliquote IMU potranno essere modificate dai comuni fino al 31 ottobre. Questo è previsto nella bozza del decreto sui costi della politica che è all'esame del Consiglio dei Ministri, che è stato all'esame del Consiglio dei Ministri. E poi la Corte dei Conti dovrà effettuare il controllo preventivo di legittimità sulle regioni, compreso il piano sanitario regionale e il piano di riparto delle risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario. E poi i sindaci e presidenti di provincia che hanno contribuito al dissesto non sono candidabili per 10 anni a numerose cariche, tra cui quelle nelle giunte, nei consigli, nel Parlamento. In realtà, mentre le regioni, con Vasco Errani, che è il presidente della conferenza delle regioni, hanno fatto sapere che non impugneranno il decreto, a me sembra che in questo momento il problema non sia tanto dei comuni, anzi molto poco dei comuni e anche delle province, se escludiamo Penati, ma sia soprattutto delle regioni che si comportano come dei piccoli stati, anche nelle spese che stiamo documentando in questi giorni. Ne parleremo alle 18.15 con Giulio Sapelli. Ancora due notizie prima di passare invece all'allegra gestione dei fondi pubblici. Allora, il maxi sequestro di beni di Franco Fiorito è del valore complessivo di 1.300.000 euro, ossia la cifra che la Procura di Roma sostiene che l'ex capogruppo abbia sottratto ai fondi del PDL della Regione Lazio. Sequestrate anche la villa e la Jeep comprata per l'emergenza neve a Roma. Questa è la giustificazione: per quei 3 giorni di neve a Roma Fiorito si è comprato la Jeep. E la villa al Circeo, la Smart, il BMW e 7 conti correnti italiani e 4 esteri. Tra l'altro, le auto sequestrate a Fiorito andranno alla Guardia di Finanza. E questo è un bel, a me piace, come è un bel, una bella lezione, un bel esempio, tutto l'opposto di quello che è successo a Lecco, dove il presidente dell'ALER, scusatemi, che è l'azienda lombarda per l'edilizia residenziale, Antonio Piazza, ha fatto una cosa che vi hanno già raccontato anche i nostri GR, ma io ci voglio tornare. Aveva trovato una multa sulla sua Jaguar. Vabbè, immagino che sia normale, che avrà soldi di famiglia, non penso che guadagni così tanto da permettersi una Jaguar il presidente dell'azienda lombarda per l'edilizia residenziale, e che si chiama, giusto ricordarlo, Antonio Piazza. Perché? Perché un disabile aveva trovato il posto occupato dalla macchina del signor, insomma, signore è una parola grossa, di Piazza, e aveva chiamato i vigili. Sapete cosa ha fatto lui? Se non l'avete letto, non l'avete ancora sentito, gli ha bucato le gomme. Allora lui ha chiesto, il PDL ha chiesto le dimissioni. All'inizio Piazza ha detto: le mie dimissioni non sono assolutamente giuste, non le ho certo date volontariamente, il mio comportamento è sempre stato improntato nella massima correttezza nel ruolo che ho svolto fino ad oggi nell'azienda lombarda per l'edilizia residenziale. Spero che l'assessore lombardo nelle prossime ore le respinga. Cioè, ma qual è il comportamento corretto nel ruolo che ha svolto? Bucare le gomme al disabile? Lo chiedo, perché in questo paese ormai sentiamo di tutto. Perché il disabile ha chiamato i vigili perché lei, con una cosa indegna, si è permesso di occupare il parcheggio per i disabili? Poi Piazza si è un po' corretto, sentiamo. Io ho mandato una lettera di scuse, mi sono pentito delle... chiedo scusa a tutti, compreso al più regionale. Io adesso non sono più presidente dell'ADA, sono un cittadino privato, ho bisogno della mia privacy. Per me è un capitolo pessimo della mia vita e preparo. Chiedo scusa anche a tutti gli altri invalidi, perché io non è nella mia indole, non è nel mio pensiero offendere la sensibilità di queste persone. Anzi, vi ho detto prima che sono stato l'artefice dei parcheggi, io ho sempre avuto un occhio per queste persone, se mi do il cuore veramente, perché non è da me. Io mi sono dimesso anche dal direttivo provinciale, c'è gente che sta per, che cose peggio di me e le ha ancora sedute. Io, per quello che ho fatto, ritengo che è giusto di mettermi da lato, di mettermi al partito, di mettermi... Sapete che sono le cariche pubbliche che posso avere in atto. Cercherò di essere, di ritornare umile, cercherò di ripartire, perché sa, non è che uno sbaglia una volta, deve sbagliare sempre. Io penso che a volte fanno crescere queste cose. Mettiamolo sotto questo punto di vista. Allora, no, per carità, le scuse si accettano sempre, caro Antonio Piazza, però io dico, siccome il gesto l'ha fatto all'inizio non voleva neanche dimettersi, se vuole essere veramente creduto, e non abbiamo motivo per non credere al suo ravvedimento, lavori un po' nei servizi sociali per i disabili per i prossimi mesi, noi siamo qua, lo racconteremo, mi sembra la lezione migliore, invece che dire le mie dimissioni non sono giuste, poi correggersi, ho sbagliato, è parcheggiato nel parcheggio dei disabili e gli hai bucato pure le gomme. Ora, non è che sia stato un errore, una distrazione, che già non è giustificabile, proprio lì c'è dell'accanimento. Comunque noi crediamo che tu, che lei si possa ravvedere, ce lo dimostri facendo dell'attività sociale, chiaramente volontaria e gratuita, proprio nei confronti dei disabili, è il modo migliore per scusarsi. Abbassare, putterecche più, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drecche più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drecche più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu, drecche più. Qualche chicca anche oggi, abbiamo altri temi per fortuna, perché sennò qua c'è da impazzire. Vi prego però, chiedo agli ascoltatori, non fate battute sull'accento del signor Piazza, a me non interessa che uno sia, diciamo, di Lecco o di Siracusa come accento, il problema è come si comporta, cioè, fine. L'accento è irrilevante. Allora, dicevo, qualche notiziola carina c'è anche oggi, perché insomma, c'è un vero e proprio boom del paese di Sambuco. Dice, ma cosa c'è a Sambuco? Beh, Sambuco è un comune di 100 anime in provincia di Cuneo, è uno dei comuni più distanti da Torino ed è un comune in cui molti consiglieri regionali stanno prendendo la residenza, perché pensate, insomma, sono 300 chilometri andare e tornare in tutto. E c'è il caso più clamoroso, Renzo Rabellino, il padre delle liste Civetta, quello che è specializzato nel candidare gli omonimi, candida gente che si chiama di cognome Buttiglione, Cota, Rosso, Coppola, per raschiare voti ai più celebri e omonimi politici. Ha preso residenza a Sambuco lui, così con 39 centesimi al chilometro e praticamente 300 chilometri. Pensate che dedizione ci vuole per andare a abitare in un posto che ti costa 300 chilometri tra andare e tornare ogni giorno quando devi fare il consiglio regionale. È da elogiare questa persona. E anche suo figlio Marco, eletto in una delle circoscrizioni di Torino, che becca ogni mese 500 euro. Anche la moglie, Luciana Pronzato, consigliere in circoscrizione, che ha ottenuto rimborsi per 6 mesi per 3.500 euro. E via così. E anche altri esponenti delle liste collegate, tra cui Massimo Calleri, 1.000 euro al mese. Ora, è chiaro che se uno fa su e giù da Sambuco tutti i giorni, è veramente uno stoico. 150 km andare, 150 tornare per arrivare in provincia di Cuneo. In realtà il sospetto è che delle volte uno mette la residenza lì e poi viva tranquillamente a Torino e magari vada anche al lavoro in autobus. E poi la vicenda, il mistero delle cassatelle. Le cassatelle sono dei dolci siciliani alla ricotta. È un mistero perché la provincia di Trapani ha messo nel bilancio 500.000 euro, che l'ex presidente della provincia Mimmo Turano aveva deciso di destinare a parrocchie e associazioni proprio la notte prima di dimettersi per candidarsi poi con l'UDC alla regione. E c'è una spesa di 7.000 euro per finanziare una sagra nel comune di Petrosino. Però il sindaco di Petrosino questi 7.000 euro di cassatelle non li ha mai visti, non li ha visti la sagra, neanche l'associazione Torrazza Beach. Allora, io lancio un appello, fateci sapere dove sono sparite queste 7.000 euro di cassatelle, perché 7.000 euro di cassatelle, insomma, è una, no, altrimenti diventano incassatelle. Cioè, è importante capire dove sono finite queste cassatelle, anche perché sono 500.000 gli euro messi a bilancio dalla provincia di Trapani per le sagre di qualunque genere. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso degli Stati Uniti, di una cosa molto specifica, ossia il confronto ieri sera, notte fonda in Italia, alle 3 di mattina, tra Mitt Romney e Barack Obama. Secondo molti osservatori la vittoria, anche 6 punti, è andata al candidato repubblicano, più sulla difensiva infatti Obama, e però da notare come anche in questo caso l'abbiano fatta da padrone i temi economici. 349-238-6666 per i vostri SMS. Quattro anni fa ho detto che non sono un uomo perfetto e non sarei stato un presidente perfetto. Questa probabilmente è la sola promessa che il governatore Romney pensa che io abbia mantenuto. La proposta che il governatore Romney ha sostenuto per 18 mesi riguarda tagli alle tasse per i ceti più abbienti per 5.000 miliardi di dollari e un aumento delle spese militari per 2.000 miliardi di dollari. Il problema è che quando gli è stato chiesto come pensa di sostenere questo tipo di ricetta, non è stato in grado di farlo. Prendiamo per esempio le tasse che riguardano le imprese. Io voglio togliere le agevolazioni a chi si arricchisce sulle spalle della classe media, come le aziende petrolifere. C'è qualcuno che pensa che ExxonMobil abbia bisogno di aiuti quando invece raddoppia i profitti sulle spalle di chi ogni giorno fa il pieno di benzina? Abbiamo risparmiato 716 miliardi di dollari sul programma Medicare, evitando di pagare in modo eccessivo le compagnie assicuratrici e chi fornisce i servizi. Con il denaro risparmiato, siamo in grado di abbassare i costi delle procedure sanitarie e abbiamo fatto un salto in avanti sul fronte dei servizi di prevenzione. Tutto ciò porterà un risparmio significativo per tutto il sistema. Così, questo è un passaggio di Barack Obama, un Barack Obama in difficoltà secondo molti osservatori, perché Romney, nonostante la fama di gaffer e di essere poco carismatico, ha tirato fuori una grinta, più battagliero del solito. Ha accusato Obama del fatto che negli ultimi 4 anni i prezzi della benzina sono raddoppiati, così come il deficit, le bollette, i prezzi dei generi alimentari, per non parlare dei costi alla sanità aumentati di 2.500 dollari a famiglia, mentre i redditi, faceva notare Romney, delle stesse famiglie sono precipitati, con 23 milioni di persone che non hanno lavoro. Il prossimo confronto è il 16 ottobre a Hempstead, nello stato di New York. Enrico Sasson, direttore del mensile Harvard Business Review Italia, buonasera. Buonasera. Senta Sasson, lei è un attento osservatore da moltissimi anni della politica americana, è stato nostro ospite nella notte elettorale. Diamo per acquisito che Romney ha sorpreso più di Obama. La domanda potrebbe però essere: non è che Obama si sia ritirato sulla difensiva perché intanto è il presidente, ha un altro tipo di standing, di allure da mostrare, e perché in questo modo vuoi lasciare che Romney scopra le sue carte, oppure a lei è solo sembrato in difficoltà Obama e basta? Prima di vedere il dibattito, per la verità, registrata un paio d'ore fa, ero abbastanza convinto di questa ipotesi, ossia che Obama poteva aver lasciato più spazio a Romney per vari motivi, il primo dei quali è che è molto facile per il newcomer mettere... Il nuovo arrivato, sì. Sì, insomma, mettere in difficoltà in generale, diciamo, il presidente in carica, e nel caso specifico è molto facile sul tema economico, visto che Obama ha dovuto gestire la peggiore crisi della storia economica o della storia tout court. Però dopo aver visto il dibattito, ho decisamente cambiato idea. Obama non è sembrato, è stato molto esitante nelle sue risposte, non è stato sempre convincente. Direi che Romney si è dimostrato assai più brillante e lucido di quello che ci si potesse aspettare, e anche dello stesso Obama, quindi è stata abbastanza una sorpresa, e direi che questa sorpresa è stata abbastanza così generalizzata e ha convinto un certo numero di americani a cambiare parere. C'è un sondaggio che è stato fatto attraverso un sito piuttosto noto negli Stati Uniti, InTrade, dove si esprimono anche gli investitori, e nelle due o tre ore successive al dibattito c'era in precedenza un consenso per Obama al 75%, una previsione di una sua vittoria, nel giro di un paio d'ore è caduto al 67%. Questo dice qualche cosa, insomma. Sì, anche se sappiamo, Sasson, che con la televisione e con i dibattiti le elezioni difficilmente si vincono, si dice in America, ma si possono perdere. Cioè, lo scivolone ti pesa tantissimo, difficile che tu poi muova così tanto, però se poi fai una grossa gaffa o ti dimostri molto incerto, le puoi perdere più che vincerle. Gli sondaggi danno ancora un leggero vantaggio di Obama, però è chiaro che forse a questo punto la strategia del presidente americano, che a mio avviso ha anche delle responsabilità, una su tutte, non aver fatto questa benedetta legge per separare le banche d'affari dalle banche che raccolgono i risparmi. Lì c'è un'accusa anche in America in questo periodo a Timothy Geithner, troppo vicino agli interessi di Wall Street, secondo me è vero, ma è una mia opinione, e quindi non avere separato l'erba buona da quella cattiva, mettiamola così, che ha creato il crack finanziario del 2008. Però Obama ha anche ereditato una situazione al collasso, Lehman Brothers pochi mesi prima, creata da amministrazioni anche repubblicane. Forse deve iniziare a tirar fuori le unghie, o lei pensa che continuerà a mostrarsi il presidente rassicurante? Beh, intanto su questa questione della legge Dodd-Frank, indubbiamente Romney ha molte frecce al suo arco, e Obama altrettanto indubbiamente non ha fatto abbastanza nei due anni successivi alla crisi, ma neppure fino adesso, per correggere in maniera significativa e radicale quello che è il sistema finanziario. Adesso non si può entrare nei dettagli, questo è decisamente criticato anche qui in Europa, dove forse un po' di regolamentazione al riguardo per le banche, non forse per le società finanziarie, è andata avanti un pochino più velocemente, e poi ci sono molte altre questioni su cui Obama deve dare delle risposte. Il tema finanziario è un tema forte, ma non è certamente l'unico. È vero che ha dovuto gestire la peggiore crisi della storia, ma è anche vero che non ha citato questo, perché altrimenti sarebbe stato veramente mettersi un po' troppo sulla difensiva, attribuire tutto a dei dati di fatto oggettivi come quelli della crisi, per cui ha cercato di contrastare Romney, ma deve dare alcune idee che in questo momento ancora non vengono fuori e su cui Romney può giocare molto facilmente. Primo fra tutti i disoccupati, secondo direi anche lo stato del debito e le prospettive del debito pubblico, che sono catastrofiche. Ecco, a me è molto impressionato comunque il finale di quel dibattito, in cui i due candidati, come sempre avviene in America, si stringono la mano, salutano le rispettive famiglie, tutto molto molto civile. Le primarie lì si fanno, ci sono i confronti televisivi, un po' diverso invece quello che capita a casa nostra. Grazie intanto a Enrico Sasson, appunto direttore della Harvard Business Review. Noi parleremo di quello che sta capitando alla politica, e quindi anche alla politica economica di casa nostra, e lo facciamo perché è tornato a volteggiare sulle nostre teste un uccellaccio, avrebbe detto Pasolini, un uccellaccio però profetico ogni tanto. E dopo tre settimane che diventa un appuntamento fisso lo spreco delle regioni italiane, non potevamo non richiamare un volatile, non ogni tanto malaugurante, ma che ogni tanto ci azzecca, professor Giulio Sapelli, storico dell'economia, insegna alla Statale di Milano. Buonasera. Buonasera Varisoni, ho troppo pazienza con lei. Vabbè, adesso lei mi svillaneggia, vabbè, andiamo avanti. Comunque un po' di invidia per il confronto americano non ce l'ha lei? Sì, sì, però devo dire che soprattutto Romney mi consola, vede che al peggio non c'è mai fine. Allora, no, guarda, questo lo dico, allora, non è che abbiamo la classe politica peggiore del mondo, insomma. Beh, insomma, stiamo cercando di, però dopo il traffico vorrei capire invece due o tre cose che abbiamo cercato di sviscerare in queste settimane, al di là della narrazione, ahimè, da gran gugnol degli sprechi delle regioni e di alcuni enti locali. Le domande che ci siamo posti in questa settimana, lo ricordo, è come se c'è un parallelismo, cioè da Mario Chiesa a Franco Fiorito, se qui siamo di fronte a un nuovo terremoto nella cosiddetta classe politica, e poi se si può parlare a questo punto della fine del regionalismo spinto, dell'idea che le regioni comunque siano più virtuose dello Stato centrale. Ne abbiamo parlato anche con il segretario della Lega Nord Maroni. Franco Fiorito poco fa al GIP dice: ho preso ciò che mi spettava, e evidentemente secondo l'accusa 1.300.000 euro, e poi anche la villa al Circeo, la Jeep comprata per l'emergenza neve a Roma, il BMW, la Smart, 7 conti correnti italiani, 4 conti correnti esteri e tutte le altre proprietà immobiliari all'estero. Era tutto ciò che spettava a Franco Fiorito. Nel frattempo, siccome noi continuiamo a occuparci anche della vita reale, segnalo che l'11 ottobre qui al Sole 24 Ore in via Monterosa 91 vi sarà un appuntamento importante per l'iniziativa Disperati Mai, che diventa un film. Ci ha contattato il London Short Film Festival, il Festival delle Lettere. La presenteremo. Chi vuole, l'ingresso è libero. 11 ottobre dalle 18.30 all'auditorium del Sole 24 Ore, via Monterosa 91. Le lettere che avete scritto per Disperati Mai diventano un film. Giulio Sapelli, da Mario Chiesa a Franco Fiorito, e fine del regionalismo come, diciamo, del migliore, il regionalismo che è sempre più virtuoso dello Stato? No, dunque, innanzitutto, se posso permettermi, il paragone con Mario Chiesa e Fiorito è veramente improprio. Quello che sta capitando adesso è comparabile con differenza. Perché allora si è distrutta una classe politica, si sono distrutti soprattutto i grandi partiti storici della Repubblica. Oggi i grandi partiti storici non esistono più, esistono solo dei partiti personali, o come io li chiamo, dei partiti neocacichisti, cioè partiti formati da grappoli di interessi dove c'è un capo che raccoglie a te attorno a sé sia degli imprenditori che dei politici, si spartiscono dei determinati favori. La formula societaria più idonea è la fondazione, no? Che fa questo, generalmente alcune fondazioni pubblicano anche delle riviste, altre no, e quindi, e soprattutto quelli che si sono emersi ora, se sono dei vecchi politici sono le seste o le settime linee della politica di allora, oppure ci sono dei nuovi come questo personaggio di cui lei parlava, che però sono appunto dei capi locali avidi e acquisitivi, no? Quindi qui non si sta distruggendo una classe politica, qui si sta infangando la politica, facendo emergere, guarda caso, proprio in questo momento, cose che certamente con questa vigenza non erano mai avvenute. Però insomma, ciò che fa problema secondo me non sono tante le feste romane. Le feste romane lì si fanno del tempo dell'impero romano, poi ognuno ci mette il suo cattivo gusto. E il problema è che oggi un insieme di forze, con al centro la magistratura, hanno deciso di renderle visibili. E quindi di, cioè, campagna di stampa. Lei ritiene che ci sia, diciamo, un'organizzazione, un attacco? No, un'organizzazione no, perché questo vuol dire che ci sia un complotto. No, questo voglio dire che c'è un mood. C'è un sentito comune da parte di alcuni settori del potere economico, del potere mediatico e anche con alcune forti pressioni internazionali, ma non un complotto. Cioè, voglio dire, Obama per vincere la campagna elettorale attacca Wall Street, giusto? tira fuori questa cosa di JP Morgan, vecchia di anni, quando hanno costretto JP Morgan, pistola alla nuca, a comprare Bernstein, a comprare in una notte senza new diligence. Da caso adesso esce fuori questa cosa qui, quindi è una colossale bufala elettorale. Per carità, io spero che a Obama riesca, perché spero che se non vince lui è una catastrofe per l'Europa e per tutto il mondo. Però ecco, anche da noi adesso si fa il gioco là a distruggere Wall Street, qui a distruggere ciò che rimane della politica, che questa cosa non è più politica, è qualcosa di nuovo, è la formazione di un insieme di volture, solamente squali in forma di uomo, che hanno occupato il potere pubblico. Però mi colpisce che, guarda caso, se ne accorgono solo adesso che siamo pre-campagna elettorale e si discute se far andare avanti o no. Allora diciamola diciamola tutta. E gli scandali che stanno emergendo, secondo lei, favoriscono, magari per un'eterogenesi dei fini, per vari interessi non sempre che si parlano tra di loro, favoriscono il Monti bis, cioè favoriscono il governo tecnico? Ma certamente. E quindi favoriscono la distruzione per sempre dell'idea stessa di politica e quindi di democrazia. Però non è colpa della magistratura se Fiorito ruba, se le regioni che raccontiamo ogni giorno sprecano i soldi nella maniera più incredibile possibile, no? No, però c'è l'obbligatorietà dell'azione penale e mi sembra che, diciamo, rubasse da molto tempo. Quindi lei contesta non il fatto che intervenga la magistratura, ma il fatto che intervenga adesso? Intervenga adesso, soprattutto quello che discuto e su cui non sono d'accordo è che noi dobbiamo occuparci per pagine e pagine dei giornali di queste cose qui e di non ci occupiamo. Certamente queste cose vanno denunciate, è una cosa gravissima, però non ci occupiamo, che so, delle sorti economiche dell'area pacifica, che se vanno bene decideranno l'ora del mondo. Non diciamo nulla sullo sminamento dello stretto di Hormuz, dove si stanno facendo già delle prove generali perché si teme che l'Iran mini lo stretto. Di quella roba lì, che è una roba che può veramente condizionare il cittadino molto più che le feste di Fiorito, non si parla. Per saperlo bisogna leggere Foreign Affairs o il Financial Times, perché i nostri mezzi di informazione assolutamente non ne parlano. Ma quindi lei ritiene, Sapelli, che questo faccia anche il gioco della, chiamiamoli così, poteri forti internazionali, perché un Monti bis garantisce di più una linea? Io quello che poi dopo contesto è che il governo Monti sia così apprezzato internazionalmente, perché penso che l'oligopolio finanziario mondiale veda Monti soprattutto come un suo dipendente, perché uno che ha fatto il commissario europeo non è che generalmente gode di buona stampa. Tant'è vero che dal grande affare mondiale che si sta giocando adesso, con cui i governi hanno un grande peso, il merger BAE e ADES, hanno consultato addirittura la Spagna, che è solo il 5%, noi che partecipiamo con Finmeccanica non ci hanno neanche considerato, e questo governo dice che parlerà con Finmeccanica il 16 ottobre. Quindi vuol dire che non godiamo di nessuna reputazione internazionale sui problemi veri. Cioè lei dice un rischio colonizzazione del paese? Sì, un rischio di deindustrializzazione finale, terminale del paese. Questo. Sapelli, io la ringrazio perché da lei otteniamo sempre prospettive e tagli comunque originali. Il suo amore per il governo Monti si riconferma. No. Io sono un analista realistico dal punto di vista io analizzo le società come analizzo le colture di insetti, né le amo e né le odio, assolutamente no. Allora, all'entomologo Sapelli, l'augurio di una buona serata. Una buona serata anche a voi in ascolto da Sebastiano Berisoni. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi con un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24. La passione si sente.